Capitolo 12, dicembre, peperoni in salsa di noci. Ingredienti: 25 peperoni, 8 melagrane, 100 noci di Castiglia, 100 g di formaggio stagionato, 1 kg di carne di manzo tritata, 100 g di uva passa, 250 g di mandorle, 250 g di noci, 500 g di pomodori, 2 cipolle medie, 2 cedri canditi, una pesca, una mela, comino, pepe bianco, sale e zucchero. Preparazione. Bisogna cominciare a pelare le noci con qualche giorno di anticipo perché si tratta di un lavoro molto lungo a cui bisogna dedicare molte ore. Dopo aver tolto il guscio, bisogna eliminare la pellicina che ricopre il gheriglio. È necessario usare una particolare cura affinché non resti neppure un pezzettino di pelle. Altrimenti, quando si macinano e si mescolano le noci con la crema, rendono amara la salsa e vanificano tutto lo sforzo precedente. Tita e Cencia stavano finendo di pelare noci sedute intorno al tavolo della sala da pranzo. Queste noci si dovevano usare nella preparazione dei peperoni in salsa di noci che avrebbero costituito il piatto forte del pranzo di nozze del giorno dopo. Tutti gli altri membri della famiglia le avevano lasciate sole, disertando la tavola con pretesti diversi. Soltanto queste due illustri donne continuavano a rimanere sulla breccia. Tita, in verità, non li biasimava. Era stata già abbastanza aiutata durante tutta la settimana e capiva benissimo che non era facile pelare 1.000 noci senza finire esausti. Aveva conosciuto una sola persona in grado di farlo senza dar segni di stanchezza e questa era mamma Elena. Lei non solo sgusciava sacchi e sacchi di noci in pochi giorni, ma provava anche un enorme piacere nel dedicarsi a questo compito. Schiacciare, rompere, spellare erano alcune fra le sue attività preferite. Le ore le volavano via quando si sedeva in cortile con un sacco di noci sulle ginocchia e non si alzava finché non aveva finito. Per lei sarebbe stato un gioco da bambini rompere quelle 1.000 noci che erano costate tanto lavoro a tutti. L'abnorme quantità era dovuta al fatto che se per 25 peperoni occorreva pelare 100 noci, per 250 peperoni corrispondevano in proporzione 1.000 noci. Alle nozze erano state invitate 80 persone fra parenti e amici intimi. Ognuno di loro poteva mangiare, se lo voleva, 3 peperoni e questo era un calcolo ragionevole. Si trattava di un matrimonio intimo, ciò nonostante Tita voleva dare un banchetto di 20 portate, come quelli che ormai non si davano più. Non potevano quindi mancare i prelibati peperoni in salsa di noci. Nonostante l'intenso lavoro che comportavano, poiché la memorabile festa richiedeva così. A Tita non importava di avere le dita nere dopo aver pelato tante noci. Quelle nozze valevano bene un simile sacrificio, dato che per lei avevano un significato molto speciale. Anche per John. John era così felice che aveva collaborato attivamente alla preparazione del banchetto. Era stato uno degli ultimi a ritirarsi per andare a riposare. Meritava un buon riposo. Nel bagno di casa sua John si pulì le mani, morto di stanchezza. Le unghie gli facevano male a furia di pelare noci. Decise di coricarsi, conscio dell'intensa emozione che provava. Tra alcune ore sarebbe stato più vicino a Tita e questo lo gratificava enormemente. Le nozze erano fissate per mezzogiorno. Passò in rassegna con lo sguardo lo smoking che riposava su di una sedia. Tutti gli indumenti da indossare l'indomani erano meticolosamente sistemati e aspettavano il momento migliore per venire esibiti. Le scarpe brillavano come non mai. Il cravattino, la fascia e la camicia erano impeccabili. Soddisfatto nel vedere che tutto era in perfetto ordine, respirò profondamente, si distese sul letto e, come mise la testa sul cuscino, si addormentò. Pedro invece non poteva prendere sonno. Una gelosia infernale lo rodeva. Non gli andava di dover assistere alle nozze e non sopportava l'idea di vedere Tita vicino a John. Non capiva assolutamente l'atteggiamento di John. Sembrava che avesse atole nelle vene. Sapeva benissimo cosa c'era tra lui e Tita e nonostante questo faceva come se niente fosse. Quel pomeriggio, nell'accendere il forno, Tita non era riuscita a trovare i fiammiferi da nessuna parte. Allora John, l'eterno galante, era corso in suo aiuto, ma questo non era tutto. Dopo aver acceso il fuoco, aveva regalato a Tita la scatola di fiammiferi prendendole le mani tra le sue. Che bisogno aveva di fare a Tita quel tipo di stupidi regali? Era soltanto un pretesto di John per accarezzare le mani a Tita davanti a lui. Senza dubbio si riteneva molto ben educato, ma Pedro gli avrebbe dimostrato che cosa fa un uomo quando davvero ama una donna. Prese la giacca e andò a cercare John per spaccargli la faccia. Sulla porta si fermò. Poteva prestarsi a dicerie il fatto che il cognato di Tita prendesse a pugni John il giorno prima della cerimonia. Tita non glielo avrebbe mai perdonato. Gettò rabbiosamente la giacca sul letto e si mise a cercare una pastiglia che gli calmasse il mal di testa. Il rumore che Tita faceva in cucina gli giungeva amplificato mille volte dal dolore. Tita pensava alla sorella mentre finiva di pelare le poche noci rimaste sul tavolo. A Rosaura sarebbe piaciuto molto essere presente alle nozze. La poveretta era morta da un anno. In onore alla sua memoria si era lasciato passare tutto questo tempo per celebrare il rito religioso. La sua morte era stata molto strana. Aveva cenato come d'abitudine e subito dopo si era ritirata in camera sua. Speranza e Tita erano rimaste a chiacchierare in sala da pranzo. Pedro era salito a salutarla prima di andare a dormire. Tita ed Speranza non avevano udito nulla, dato che la sala da pranzo era lontana dalle camere da letto. Dapprima Pedro non si era stupito di sentire, anche con la porta chiusa, le ventosità di Rosaura, ma aveva cominciato a prestare attenzione a quegli sgradevoli rumori quando uno di essi si era prolungato più del dovuto ed era sembrato interminabile. Pedro aveva tentato di concentrarsi sul libro che stava leggendo, pensando che non era possibile che quel suono prolungato fosse il prodotto dei disturbi digestivi di sua moglie. Il pavimento tremava, la luce andava e veniva. Per un attimo Pedro pensò che la rivoluzione fosse ricominciata con quei fragorosi rombi di cannone, ma scartò questa possibilità perché nel paese, in quel periodo, c'era fin troppa calma. Forse si trattava del motore dell'automobile dei vicini, ma a pensarci bene, le automobili a motore non emanano un odore così nauseabondo. Era strano che percepisse questo odore nonostante avesse preso la precauzione di andare avanti e indietro per tutta la stanza con un cucchiaio nel quale aveva messo un pezzo di carbone incandescente e un po' di zucchero. Questo metodo è molto efficace contro i cattivi odori. Quando Pedro era piccolo usavano fare questo nella stanza dove un malato di stomaco aveva defecato e riuscivano sempre a risanare l'ambiente con successo. Ma ora anche questo si era dimostrato inutile. Preoccupato, si era avvicinato alla porta comunicante con quella di sua moglie e bussando aveva chiesto a Rosaura se stesse bene. Non avendo ottenuto risposta, aveva aperto e si era trovato davanti una Rosaura dalle labbra violacee, dal corpo sgonfio, dagli occhi sbarrati, dallo sguardo perso nel vuoto che emetteva il suo ultimo flatulento respiro. La diagnosi di John era stata congestione di stomaco acuta. Al funerale avevano partecipato poche persone perché con la morte l'odore nauseante che emanava il corpo di Rosaura era diventato, se possibile, ancora più intenso. Per questo motivo erano stati pochi coloro che vi avevano preso parte. Non se lo perse uno stormo di uccelli rapaci che avevano smesso di sorvolare il corteo soltanto a sepoltura conclusa. Allora, vedendo che non ci sarebbe stato nessun banchetto, si erano ritirati molto delusi, lasciando riposare Rosaura in pace. Ma per Tita non era ancora giunto il momento di riposare. Era sul punto di urlare per la stanchezza, ma prima doveva finire la salsa di noci. Quindi le conveniva sbrigarsi in cucina, per potersi concedere una meritata pausa invece di rimuginare eventi passati. Dopo aver pelato tutti i gherigli, si macinano sul metate assieme al formaggio e alla panna. Per ultimo si mette sale e pepe bianco. Con questa salsa di noci si ricoprono i peperoni ripieni che verranno poi decorati con la melagrana. Ripieno dei peperoni. Si soffrigge la cipolla in un po' di olio. Quando è dorata si aggiungono la carne tritata, il comino e un pizzico di zucchero. Si fa rosolare la carne e poi si uniscono la pesca, la mela, le noci, l'uva, le mandorle e il pomodoro tritato e si lascia insaporire il tutto. Quando il soffritto ha acquistato sapore, si mette il sale e si lascia consumare prima di togliere il ripieno dal fuoco. A parte, si fanno abbrustolire i peperoni e si pelano, poi si aprono su un lato e si tolgono i semi e le costine. Tita e Cencia finirono di guarnire i 25 vassoi con i peperoni e li posero in un luogo fresco. Il giorno dopo i camerieri li presero da lì, in perfetto stato, e li portarono al banchetto. I camerieri andavano da una parte all'altra per servire gli animatissimi invitati. La comparsa di Gertrudis alla festa richiamò l'attenzione generale. Giunse in una coupé Ford T, una delle prime auto da corsa. Nello scendere dalla macchina per poco non le cadde il gran cappello a tesa larga con piume di struzzo. Il suo vestito con spalle imbottite era quanto di più moderno e vistoso ci fosse. Juan non era da meno, indossava un elegante completo attillato, paglietta e gambaletti. Il loro figlio maggiore era diventato uno scultore e un mulatto. I tratti del volto erano molto delicati e i suoi occhi chiari risaltavano sul bruno della pelle. Il colore della pelle l'aveva ereditato dal nonno e gli occhi azzurri da mamma Elena. Aveva gli occhi identici a quelli della nonna. Dietro di loro veniva il sergente Trevigno, il quale, da quando era finita la rivoluzione, era stato assunto come guardia del corpo di Gertrudis. All'ingresso della fattoria, Nicolás e Rosalio, nel tradizionale costume messicano, ritiravano gli inviti dalle persone che continuavano ad arrivare. Si trattava di biglietti di invito bellissimi. Alex ed Esperanza li avevano fatti personalmente. La carta degli inviti, l'inchiostro nero con cui erano stati scritti, i profili dorati delle buste e la cera lacca con cui erano state sigillate, costituivano il loro capolavoro e ne erano giustamente orgogliosi. Tutto era stato preparato secondo la tradizione e utilizzando le ricette della famiglia della Garza. Beh, non era stato necessario preparare l'inchiostro nero perché ne era avanzato in abbondanza dalle nozze di Pedro e Rosaura. Era divenuto secco, ma con l'aggiunta di solo una piccola parte di acqua era tornato, come appena fatto. Questo inchiostro si ottiene miscelando 8 once di goma arabica, 5 once e mezzo di noci di galla, 4 once di solfato ferroso, 2 once e mezza di estratto di legno di campeggio e mezza oncia di solfato di rame. Per l'inchiostro d'oro che si mette sui bordi delle buste si utilizza un'oncia di orpimento e un'altra di cristallo di rocca ridotto in polvere finissima. Si versano queste polveri in 5 o 6 chiare d'uovo e si mescolano bene fino a ottenere una miscela liquida. La cera lacca si prepara invece facendo fondere una libbra di gomma lacca, mezza di minio, mezza di colofonia e una di vermiglione. Si versa poi il miscuglio ottenuto su di un tavolo spalmato con olio di mandorle e prima che si raffreddi si formano i bastoncini o le sbarre. Esperanza e Alex avevano trascorso molti pomeriggi seguendo alla lettera questa ricetta per fare degli inviti assolutamente unici e ci erano riusciti. Ognuno di essi era un'opera d'arte, era il prodotto di un lavoro artigianale che purtroppo stava passando di moda, assieme agli abiti lunghi, alle lettere d'amore e ai valzer. Ma per Tita e Pedro non sarebbe mai passato di moda il valzer Occhi di gioventù, che in quel momento l'orchestra suonava su precisa richiesta di Pedro. Insieme scivolavano sulla pista con molta grazia. Tita era splendida. I 22 anni che erano trascorsi dalle nozze di Pedro con Rosaura sembravano non averla neppure sfiorata. Con i suoi 39 anni era ancora fresca come un cetriolo appena colto. Gli occhi di John li seguivano nel ballo ed esprimevano tenerezza e un pizzico di rassegnazione. Pedro sfiorava con la guancia quella di Tita e lei sentiva che la mano di Pedro sui fianchi le bruciava come non mai. Ti ricordi quando abbiamo ascoltato per la prima volta questo motivo? Oh, non lo dimenticherò mai. Quella notte non ho dormito pensando di chiedere immediatamente la tua mano. Non sapevo che avrei dovuto aspettare 22 anni per chiederti di nuovo in moglie. Dici davvero? Certo, non voglio morire senza ottenere che tu lo sia. Ho sempre sognato di entrare in una chiesa piena di fiori bianchi con te, la donna più bella fra tutte le presenti. Vestita di bianco? Naturalmente, nulla te lo vieta. E sai un'altra cosa? Appena saremo sposati voglio un figlio da te. Siamo ancora in tempo, non credi? Adesso che Speranza ci lascia avremo bisogno di compagnia. Tita non riuscì a rispondere a Pedro. Un nodo in gola glielo impediva. Alcune lacrime le solcarono lentamente il viso, le sue prime lacrime di felicità. E voglio che tu sappia che non riuscirai a dissuadermi. Non mi importa cosa penserà mia figlia, né nessun altro. Abbiamo passato molti anni preoccupandoci di quel che avrebbe detto la gente. Ma da questa sera nessuno potrà più separarmi da te. In realtà, a questo punto, neppure a Tita importava un fico secco di ciò che la gente avrebbe pensato quando la loro relazione d'amore fosse diventata di dominio pubblico. Per 20 anni avevano rispettato il patto che lei e Pedro avevano stabilito con Rosaura e ora era stanca. L'accordo consisteva nel prendere in considerazione che per Rosaura era di vitale importanza continuare a fingere che il suo matrimonio funzionasse a meraviglia e che per lei era essenziale che sua figlia crescesse nella sacra istituzione della famiglia, l'unica, secondo lei, capace di dare una solida formazione morale. Pedro e Tita, quindi, si erano impegnati a rispettare la massima riservatezza nei loro incontri e a mantenere nascosto il loro amore. Agli occhi del mondo sarebbero stati una famiglia normale. Per questo Tita doveva rinunciare ad avere un figlio illegittimo. Come ricompensa, Rosaura era disposta a dividere speranza con lei in questo modo. Tita si sarebbe occupata dell'alimentazione della bambina e Rosaura della sua educazione. Da parte sua Rosaura si vedeva costretta a convivere con loro in modo amichevole, evitando scenate di gelosia e lamentele. In generale tutti avevano rispettato il patto, tranne per ciò che riguardava l'educazione di Esperanza. Tita desiderava per Esperanza un'educazione molto diversa da quella che aveva in mente Rosaura. Quindi, sebbene esulasse dal suo compito, approfittava dei momenti in cui Speranza le era vicina per trasmettere alla bambina un modello di educazione diverso da quello che le dava la madre. Questi momenti occupavano gran parte della giornata perché la cucina era il luogo preferito da Esperanza e Tita, la sua migliore confidente e amica. Proprio in uno di quei pomeriggi che passavano insieme in cucina, Tita aveva appreso che Alex, il figlio di John Brown, aspirava alla mano di Esperanza. Tita era stata la prima a saperlo. Si erano rivisti dopo molti anni durante una festa organizzata nel collegio dove Speranza studiava. Alex stava finendo i suoi studi di medicina. Avevano subito provato un'attrazione reciproca. Quando Speranza disse a Tita che nel sentire lo sguardo di Alex sfiorare il suo corpo si era sentita come l'impasto di una frittella nell'olio bollente, Tita aveva avuto la certezza che Alex ed Speranza si sarebbero uniti inesorabilmente. Rosaura aveva cercato in tutti i modi di contrastarli. Dapprima si era opposta drasticamente. Pedro e Tita avevano preso le parti di Esperanza e allora era cominciata tra loro una vera guerra all'ultimo sangue. Rosaura esigeva urlando i suoi diritti. Pedro e Tita stavano rompendo il patto e quello non era giusto. Non era la prima volta che avevano delle discussioni a causa di Esperanza. Le prime erano nate perché Rosaura si impuntava nel non volere che sua figlia andasse a scuola. Lei lo considerava una perdita di tempo. Se la missione di Speranza in questa vita era soltanto quella di occuparsi di lei, sua madre, per sempre, non le occorreva una cultura elevata. Era preferibile che studiasse pianoforte, canto e danza, attività che le sarebbero state molto più utili nella vita. In primo luogo perché così Speranza avrebbe potuto offrire a Rosaura meravigliosi pomeriggi di letizia e di divertimento. In secondo luogo, perché la sua partecipazione alle feste in società sarebbe stata molto apprezzata e di sicuro effetto. In questo modo si sarebbe attirata l'attenzione di tutti e sarebbe stata sempre molto ben accetta dalla classe alta. Dopo un lungo lavorio erano riusciti a convincere Rosaura, discorso dopo discorso, che era importante che Speranza, oltre a cantare, ballare e suonare virtuosamente il pianoforte, potesse parlare di cose interessanti quando era in compagnia. Perciò era necessario che andasse a scuola. Rosaura aveva accettato a malincuore di mandare la bambina in collegio, poiché alla fine si era convinta che Speranza, oltre a imparare a conversare in modo ameno interessante, nelle elementari sarebbe stata gomito a gomito con il fior fiore della società di Piedras Negras. E Speranza aveva allora frequentato il miglior collegio allo scopo di affinare il suo intelletto. Tita, da parte sua, si era incaricata di insegnarle qualcosa di ugualmente prezioso, i segreti della vita e dell'amore attraverso la cucina. La vittoria ottenuta su Rosaura era stata totale, tanto da non dover intraprendere altre forti discussioni fino al momento in cui si era presentato Alex e con lui la possibilità di un fidanzamento. Rosaura era andata su tutte le furie, constatando che Pedro e Tita appoggiavano incondizionatamente Speranza. Con tutti i mezzi a sua disposizione, aveva lottato come una leonessa per difendere ciò che per tradizione le spettava, una figlia che vegliasse su di lei fino alla sua morte. Aveva gridato, scalciato, vociferato, sputato, vomitato e minacciato con tutta la forza della disperazione. Per la prima volta aveva infranto il patto e lanciato maledizioni contro Pedro e Tita, oltre a rinfacciare loro tutte le sofferenze che le avevano causato. La casa si era trasformata in un campo di battaglia. Le sbatacchiate di porta erano all'ordine del giorno. Per fortuna questi litigi non si erano protratti troppo a lungo, perché 3 giorni dopo lo scontro più violento e lacerante tra le due fazioni, a causa di gravi disturbi della digestione, Rosaura era morta nel modo in cui era morta. Essere arrivata alle nozze di Alex ed Esperanza era il maggior trionfo di Tita. Come si sentiva orgogliosa nel vedere Speranza così sicura di sé, intelligente, preparata, felice, acuta, ma allo stesso tempo così femminile, così donna nel senso più ampio del termine. Era splendida col suo vestito da sposa, mentre ballava con Alex il valzer Occhi di gioventù. Quando la musica finì, i Lobo, Paquita e Jorge si avvicinarono a Pedro e a Tita per rallegrarsi. Congratulazioni, Pedro. Tua figlia non avrebbe potuto trovare un partito migliore nel raggio di 10 miglia. Sì, Alex Brown è un magnifico ragazzo, ma purtroppo ci abbandonerà. Alex ha vinto una borsa di studio per fare il dottorato all'Università di Harvard e oggi stesso, dopo le nozze, partiranno. Oh, che peccato, Tita. E adesso come farai? Commentò con molta malignità Paquita. Senza Speranza in casa non potrai più vivere vicino a Pedro. Ah, prima che tu te ne vada altrove, dammi la ricetta dei peperoni in salsa di noci, sembrano squisiti. I peperoni in salsa di noci non soltanto facevano una bella figura, ma erano veramente prelibati. A Tita non erano mai riusciti così squisiti. I peperoni esibivano con orgoglio i colori della bandiera, il verde dei peperoni, il bianco della salsa, il rosso della melagrana. Quei vassoi tricolori durarono pochissimo, in un batter d'occhi i peperoni sparirono dai piatti. Com'era lontano il giorno in cui Tita si era sentita come un peperone in salsa di noci che si lascia per decenza per non mostrare di essere troppo golosi. Tita si chiedeva se il fatto che non rimanessero peperoni era segno che stavano scomparendo le buone maniere, o che erano davvero squisiti. I commensali erano entusiasti. Che differenza fra queste e le sfortunate nozze di Pedro e Rosaura, quando tutti gli invitati si erano intossicati. Ora, assaggiando i peperoni in salsa di noci, invece di sentire una forte nostalgia e una grande frustrazione, tutti provavano una sensazione simile a quella di Gertrudis quando aveva mangiato le quaglie in salsa di rose. E tanto per cambiare, fu di nuovo Gertrudis ad avere gli stessi sintomi. Stava ballando con Juan in mezzo al cortile, il mio caro capitano, e cantava il ritornello mentre danzava leggera come non mai. Ogni volta che pronunciava l'ai ai ai ai mio caro capitano, ricordava l'epoca lontana in cui Juan, allora capitano, l'aveva incontrata in piena campagna completamente nuda. Riconobbe subito il calore alle gambe, il pizzicorino al centro del corpo, i pensieri peccaminosi, e decise di ritirarsi con suo marito prima che la situazione diventasse incontrollabile. Gertrudis fu quella che iniziò a sbandare. Anche tutti gli altri invitati, con pretesti diversi e con sguardi libidinosi, si scusarono e rincasarono. Gli sposi se ne rallegrarono in silenzio perché, rimasti finalmente soli, ebbero la possibilità di prendere il loro bagaglio e di andarsene al più presto. Avevano urgenza di arrivare in albergo. Quando Tita e Pedro se ne accorsero, in casa, oltre a loro due, erano rimasti soltanto John e Cencia. Tutti gli altri, compresi i braccianti della fattoria, si trovavano ormai nel luogo più lontano che avevano potuto raggiungere e facevano all'amore sfrenatamente. Alcuni sotto il ponte di Piedras Negras e a Eagle Pass. I più tradizionali nell'automobile mal posteggiata sul bordo della strada, e gli altri dove era possibile, qualsiasi luogo era adatto: il fiume, le scale, la vasca, il camino, il forno di una stufa, il banco della farmacia, l'armadio, le fronde degli alberi. La necessità aguzza l'ingegno. Quello fu il giorno più creativo della storia dell'umanità. Da parte loro, Tita e Pedro facevano grandi sforzi per non dare libero sfogo ai loro impulsi sessuali, ma questi erano talmente forti che oltrepassavano la barriera della pelle e affioravano in forma di un calore, di un odore singolari. John lo notò e, rendendosi conto di fare la parte del terzo incomodo, salutò e andò via. Tita si rattristò nel vederlo andar via da solo. John avrebbe dovuto sposarsi con un'altra donna quando lei aveva rifiutato di diventare sua moglie, ma non lo aveva mai fatto. Quando John uscì, Cencia chiese di poter andare al suo paese. Da qualche giorno suo marito era andato a fare il muratore e all'improvviso lei aveva una gran voglia di vederlo. Se Pedro e Tita avessero progettato di rimanere soli in luna di miele, non sarebbe stato così facile. Per la prima volta nella loro vita potevano amarsi liberamente. Per molti anni era stato loro necessario prendere una serie di precauzioni perché nessuno li vedesse, perché nessuno sospettasse, perché Tita non restasse incinta per non gridare di piacere. D'ora innanzi tutto questo apparteneva al passato. Senza bisogno di parole, si presero per mano e si avviarono verso lo stanzino buio. Prima di entrare, Pedro la sollevò tra le braccia, aprì lentamente la porta e ai loro occhi la camera apparve completamente trasformata. Tutte le masserizie erano sparite. C'era soltanto il letto in ottone splendidamente preparato in mezzo alla stanza, le lenzuola di seta, la coperta, il tappeto a fiori che ricopriva il pavimento e i 250 ceri che illuminavano quella che era ormai improprio definire camera buia, erano di colore bianco. Tita si emozionò pensando al lavoro che Pedro aveva fatto per decorarla in quel modo. E a Pedro capitò lo stesso, pensando a come Tita si era ingegnata nel farlo di nascosto. Erano così colmi di piacere che non notarono che in un angolo della stanza Nacha accendeva l'ultimo cero e svaniva in silenzio dalla scena. Pedro depositò Tita sul letto e lentamente le tolse a uno tutti gli indumenti che aveva addosso. Dopo essersi accarezzati e osservati con infinita tenerezza, diedero sfogo alla passione per tanti anni contenuta. Il battere della testata di ottone contro il muro e i suoni gutturali che entrambi emettevano si confusero con il rumore di migliaia di colombe che volavano disordinatamente su di loro. Il sesto senso che posseggono gli animali indicò alle colombe che era venuto il momento di fuggire velocemente dalla fattoria. La stessa cosa fecero le altre bestie, le mucche, i maiali, le galline, le quaglie, gli agnelli, i cavalli. Tita non poteva rendersi conto di nulla. Ebbe la sensazione di stare per raggiungere la vetta del piacere con una tale intensità che i suoi occhi chiusi si illuminarono e davanti a lei apparve un brillante tunnel. In quell'istante ricordò le parole che un giorno John le aveva detto. Se per una emozione molto forte si accendessero tutti insieme i fiammiferi che abbiamo dentro di noi, produrrebbero un bagliore così intenso da mostrare più di quanto riusciamo a vedere normalmente. E allora davanti ai nostri occhi un tunnel splendente ci indicherebbe la strada che abbiamo dimenticato al momento della nascita e ci inviterebbe a ritrovare la nostra perduta origine divina. Quando abbandona il corpo inerte, l'anima desidera far ritorno al luogo da cui è venuta. Tita soffocò la sua emozione. Lei non voleva morire, voleva sperimentare quella stessa emozione molte volte ancora. Questo era solo l'inizio. Tentò di normalizzare la sua respirazione affannosa e solo allora percepì il fruscio del battito d'ali delle ultime colombe che si allontanavano. Tranne questo rumore, sentiva soltanto quello del battito dei loro due cuori. I battiti erano forti, riusciva perfino a sentire il cuore di Pedro pulsare sulla pelle del suo seno. All'improvviso, questo palpito si arrestò bruscamente. Un silenzio mortale invase la stanza. Le ci volle solo qualche istante per capire che Pedro era morto. Con Pedro moriva la possibilità di riaccendere il suo fuoco interiore. Con lui se ne andavano tutti i fiammiferi. Sapeva che il calore naturale che ora sentiva si sarebbe a poco estinto, divorando la sua stessa sostanza, non appena le fosse mancato ciò che lo alimentava e lo manteneva. Sicuramente Pedro era morto nel momento dell'estasi, quando stava penetrando nel tunnel luminoso. Si pentì di non averlo fatto anche lei. Ora non le sarebbe stato più possibile rivedere quella luce, perché non riusciva a provare più nulla. Sarebbe rimasta sola, molto sola, a errare nelle tenebre per tutta l'eternità. Doveva trovare un modo, anche se artificiale, di procurare un fuoco tale che potesse illuminare quella strada di ritorno alle sue origini e a Pedro. Prima, però, era necessario attutire il freddo raggelante che incominciava a paralizzarla. Si alzò, corse a prendere l'enorme coperta che aveva intessuto in notti e notti di solitudine e di insonnia, e se la buttò addosso. Con essa coprì i 3 ettari di terra della fattoria. Prese dal cassetto del comodino la scatola di fiammiferi che John le aveva regalato. Le occorreva molto fosforo in corpo. Incominciò a mangiare uno alla volta tutti i fiammiferi contenuti nella scatola. Masticando ogni cerino, chiudeva gli occhi e cercava di rievocare i ricordi più emozionanti tra lei e Pedro. Il primo sguardo, il primo contatto delle sue mani, il primo mazzo di fiori, il primo bacio, la prima carezza, il primo rapporto intimo. E ottenne ciò che voleva. Quando il fosforo che masticava faceva contatto con la luminosa immagine che evocava, i fiammiferi si accendevano. A poco il chiarore tornò finché davanti ai suoi occhi apparve il tunnel. Lì, sul limitare, c'era la luminosa figura di Pedro che l'attendeva. Tita non esitò, si spinse in quella direzione e si unì a lui in un lungo abbraccio. Travolti ancora da un climax di passione, partirono insieme verso l'Eden perduto. Non si sarebbero più separati. Mai più. In quel momento gli infuocati corpi di Pedro e di Tita incominciarono a lanciare lucenti scintille. Essi incendiarono la coperta che a sua volta propagò il fuoco per tutta la fattoria. Gli animali erano fuggiti appena in tempo per salvarsi dall'incendio. La camera buia si trasformò in un vulcano voluttuoso. Lanciava pietre e cenere ovunque. Le pietre giunte in alto scoppiavano trasformandosi in luci multicolori. Gli abitanti delle comunità vicine osservavano lo spettacolo da parecchi chilometri di distanza, credendo che si trattasse dei fuochi artificiali che festeggiavano le nozze di Alex e di Esperanza. Ma quando questi fuochi si prolungarono per una settimana, si avvicinarono incuriositi. Una coltre di cenere di diversi metri di altezza ricopriva tutta la fattoria. Quando Speranza, mia madre, fece ritorno dal viaggio di nozze, sotto i resti di ciò che era stata la fattoria, trovò soltanto questo libro di cucina che ho ereditato alla sua morte e che narra questa storia d'amore sepolta, ricetta per ricetta. Dicono che sotto le ceneri fiorì ogni tipo di vita, trasformando quel terreno nel più fertile della regione. Durante la mia infanzia ho avuto la fortuna di assaporare la gustosa frutta e la verdura che vi si producevano. Con il tempo mia madre fece costruire su quel terreno un piccolo edificio formato da diversi appartamenti. In uno di essi ci vive Alex, mio padre. Oggi verrà a casa mia a festeggiare il mio compleanno. Perciò sto preparando le focaccine di Natale, il mio piatto preferito. La mamma me le preparava tutti gli anni. La mamma, come rimpiango il suo modo di cucinare, l'odore della sua cucina, i suoi discorsi mentre faceva da mangiare le sue focaccine di Natale. Non mi spiego perché a me non siano mai riuscite come a lei, e non so neppure perché verso tante lacrime quando le preparo. Forse perché sono sensibile alla cipolla come lo era Tita, la mia prozia, che continuerà a vivere finché qualcuno cucinerà le sue ricette. Fine.